Allora riprendiamo la linea in diretta, sempre l'87-900, scusandoci ovviamente per l'attesa, ma nel frattempo abbiamo cercato di approntare alcuni collegamenti. Uno di questi è con l'iniziativa che è ancora tuttora in corso alla città universitaria, alla Sapienza, a Piazzale della Minerva. Questa mattina, fuori la guerra dall'università, un presidio per contestare il sodalizio tra università pubbliche e applicazioni belliche, in un certo senso simboleggiato da questo convegno che si sta tenendo proprio in questi minuti, una conferenza appunto sulla cyber warfare. Allora noi siamo collegati telefonicamente con un compagno che si trova lì, per cui ci facciamo raccontare come sta andando l'iniziativa. Ciao, ti sento benissimo. Se mi sentite voi, vabbè, comunque vi racconto come sta andando. Sì. Siamo in presidio da questa mattina alle 8, orario in cui iniziava il convegno, si inizierà a dare fastidio da subito ai vari militari, ministri e capi del consiglio di amministrazione di varie aziende che sono venute oggi. Questo convegno sulla cyber warfare è il secondo che si fa alla Sapienza, è il quarto di un ciclo di incontri che è partito dall'Università di Firenze. Si è aggiunta anche la Sapienza tramite un centro di ricerca sulla sicurezza informatica che è nato da pochi anni, per andare appunto a creare quei canali giusti per poter sviluppare la ricerca bellica anche all'interno dell'università. Le aziende implicate sono la Maglan, principalmente, che è un'azienda sulla difesa e sull'intelligence israeliana, la Finmeccanica, una delle maggiori aziende italiane, come è noto, impegnata in ambito bellico in tutto il mondo. Citroen, che è un'altra azienda legata più all'ambito informatico, ma che costruisce sistemi, ad esempio, di identificazione per i migranti sulle frontiere. Insomma, questa è la tipologia di aziende che vanno a costruire questo convegno. E da questa mattina siamo in presidio, il rettorato della Sapienza è militarizzato, ci saranno un centinaio di DIOS fuori dall'edificio, tutte le porte sono chiuse, si entra proprio una alla volta. E insomma, per ora non siamo riusciti a fare irruzione, diciamo, del convegno. Abbiamo fatto un giro per l'università, abbiamo interrotto lezioni, esami, per comunicare quello che sta succedendo dentro l'università, appunto un processo che è quello di privatizzazione, che poi è conseguenza di delle riforme che negli ultimi anni abbiamo visto e anche abbiamo commentato, tra l'altro, con movimenti di protesta molto larghi contro questo tipo di riforme, mentre oggi ci troviamo appunto neanche in troppi a combattere contro le conseguenze di queste riforme. Quindi l'invito è appunto a stare molto attenti, che poi sono queste le conseguenze di tutte le riforme che abbiamo combattuto in questi anni, e si palesano poi in convegni come questo, che sono più che altro convegni di facciata per rendere pubbliche queste collaborazioni, che chiaramente avvengono comunque, però è importante, insomma, far capire che l'università è un terreno ostile per questo tipo di sodalizi, per questo tipo di progetti, e che come studenti e studenti siamo contro la guerra e contro la ricerca bellica. Eh sì, anche perché, insomma, in questi giorni, ad esempio, il governo Letta si sta sbracciando per, diciamo, dar l'impressione di intervenire soprattutto rispetto ad alcuni campi di cui si sente molta urgenza, cioè quello del lavoro e anche quello della ricerca e dell'università. Sembra, insomma, che ci siano degli investimenti che verranno fatti nel corso degli esercizi prossimi proprio sull'università, ma qui il problema ormai, insomma, è appunto, è giustamente voi lo mettete in rilievo, è quello di cambiare in modo, diciamo così, di capovolgere proprio un po' quelle che sono le politiche di cui sono investiti gli atenei italiani. Insomma, non si tratta solo e soltanto di rimpinguare le risorse economiche, ma anche di stravolgere proprio un po' quelli che sono i programmi, no? E in questo caso, certo, penso questo discorso penso valga in generale un po' tutti gli ambiti di critica che uno può avere, ma in particolare sull'università, dato che sia con il movimento dell'Onda che con il movimento del 2010, che ha portato e ha costruito la manifestazione del 14 dicembre, abbiamo visto tantissimi studenti scendere in piazza su parole d'ordine, in particolare su quelle dell'Onda, molto, insomma, positive sulla ricerca, nel senso più fondi alla ricerca, la ricerca è il modo, insomma, per raggiungere gli altri paesi d'Europa, quindi ora potrebbe essere sventolato come metodo per uscire dalla crisi, produrre, avere, insomma, anche ambiti in cui si è eccellenti. però noi sappiamo appunto che su questo dobbiamo andarci con i piedi di piombo, dato che il tipo di ricerca che viene portato avanti nei nostri atenei è molto spesso, se non è direttamente bellico, è comunque indirizzato al mantenimento dello stato attuale delle cose e a fini quindi anche di profitto molto spesso. Quindi su questo tocca stare molto attenti a quando si chiede un'università pubblica, a quando si chiede una ricerca e più fondi alla ricerca, perché poi ci ritroviamo a vedere questo tipo di ricerca e non altra. Quindi se ci devono dare più soldi per fare questa ricerca, se li tenessero e non nascondessero dietro fini di istruzione e di ricerca quello che è la guerra e i rapporti fra enti tra governi e aziende insomma belliche. Senti, che tipo di situazione c'è all'università? Nel senso, si fermano gli studenti a capire un po' quali sono le ragioni del vostro presidio? Purtroppo c'è da dire che secondo me anche non a caso, essendo il 19 di giugno, facendo 35 gradi, l'università è abbastanza deserta, certo. Sia perché sono finiti tutti i corsi, sia perché la gente sta facendo gli esami, sta passando, cioè se non avessimo fatto qualcosa noi sarebbe stato totalmente sotto silenzio. Noi avevamo contestato anche il primo convegno di questi, avevamo provato a fare un blitz a entrare e avevamo trovato di fronte insomma la Digos che ci aveva ricattato e gli abbiamo tirato insomma delle uova, un po' contestato il convegno, però insomma queste volte si sono attrezzati per essere più organizzati, dato la contestazione precedente, e hanno posizionato il convegno in una parte dell'anno insomma abbastanza più difficile per costruire un allargamento sugli studenti. Detto questo, il presidio ha iniziato con due casse sparate contro il rettorato, con rumori di bombardamenti, mitragliatrici e cose, quindi insomma abbiamo dato parecchio sull'occhio e siamo riusciti comunque a far capire a molte persone cosa stava succedendo. Siamo passati per le facoltà, abbiamo interrotto lezioni, principalmente esami o lo studio degli studenti, però insomma su questo appunto è un primo tassello sicuramente, quello di far capire che succede qua dentro, una insomma di riuscirlo poi a bloccare e riuscire a insomma ad andare realmente a fermare questo tipo di processi. Certamente, d'accordo, comunque insomma, si è trattato di un impegno notevole, quello di organizzare questa 3 giorni all'università con il presidio di questa mattina, che comunque appunto è importante perché testimonia di una presenza ostile, come tu dicevi, rispetto a questo tipo di progetti. Fuori la guerra dall'università, dunque grazie e a presto. Ciao a tutti e a tutte. Ciao. Ascolta e sostieni Radio Onda Rossa 87.9 in FM.